America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The thing is, I went there in 1917, and of course all schools have been there in 1917. I was always hungry. Evelyn Waugh, beh, è uno dei grandi scrittori americani, autore di un libro che ha fatto epoca. Questo libro si chiama Scoop ed è un classico su leggerezze, creatività e trucchi del mestiere giornalistico. Devo dire, Waugh era anche un romanziere, ha scritto una gran quantità di libri, anche diciamo con una certa pretesa di serietà, ma è ricordato soprattutto per questo suo classico. Lui stesso del resto era stato giornalista. Bloomberg News is at the center of a spying story. The company is apologizing for allowing this journalist. Charlie Rose è uno dei più grandi giornalisti televisivi americani, conosciutissimo, il suo talk show sulla CBS, e come avete sentito parla dello scandalo di Bloomberg. Ci sono state delle rivelazioni scandalose e pruriginose sulla ricerca news da parte del gruppo Bloomberg, che cosa faceva? Cercava le notizie spiando le attività dei clienti, i loro metodi di lavoro, la storia delle loro ricerche, e quindi cercava di capire se la ricerca di un certo cliente, che poteva essere una banca importante, un banchiere d'affari, su un particolare titolo, su una particolare azienda, poteva magari essere collegato all'idea che ci fosse in corso un negoziato, un affare, e dunque se ci fosse la possibilità dal punto giornalistico di fare uno scoop alla Evelyn Waugh. In altri tempi le rivelazioni scandalose, pruriginose, persino della ricerca news di questo gruppo Bloomberg avrebbero meritato forse un capitolo a parte in questo celebre libro di Evelyn Waugh. Però Scoop esce nel 38, quando il giornalismo era ancora pervaso da un romanticismo d'altri tempi che ispirava indulgenza, perdono. E invece questo scandalo Bloomberg, cioè questa attività di spionaggio sulle ricerche dei clienti, capita nel bel mezzo dell'era digitale, dell'informazione in tempo reale, di polemiche nostrane in Italia su abusi di un'informazione a ruota libera. Si parla di volgarità, di minacce su Twitter, ci si lamenta, si pensa di porre dei limiti, ci sono coloro che dicono no, voi volete strozzare la libertà, e attenzione perché ci sono anche dei risvolti globali, perché no, sicuramente non avete dimenticato, ne abbiamo parlato proprio qui ad America 24, gli scandali giornalistico-etici, di nuovo di natura tecnologica, in quel caso era hacking, che hanno messo in ginocchio la divisione giornale del gruppo Murdoch. Come ricorderete, Rupert Murdoch è stato ascoltato da una commissione al Parlamento britannico, ha rischiato, devo dire, molto grosso. Suo figlio James ha dovuto dare le dimissioni. Alla fine hanno dovuto addirittura spaccare in due il gruppo News Corp, creando una divisione di entertainment, quindi le televisioni, le produzioni cinematografiche televisive, e dall'altra invece il gruppo dei giornali. Dunque, la domanda che ci dobbiamo porre è: cosa succederà di Bloomberg, un gruppo che fattura quasi 8 miliardi di dollari, che è uno dei punti chiave in quello che è lo svincolo delle transazioni finanziarie quotidiane, che muovono migliaia di miliardi di dollari e che ha fatto la fortuna naturalmente di Michael Bloomberg, il sindaco di New York? Well, first, Bloomberg's relationship with its private sector clients and banks on Wall Street. Second, Bloomberg's relationship with government, with the use of Bloomberg terminals. Ieri, devo dire, sulle reti televisive americane vi ho fatto sentire Charlie Rose, ma potrei farvi sentire decine di altri interventi. Si è parlato molto di questo scandalo a Bloomberg, perché se lo scandalo News Corp è soprattutto avvenuto in Gran Bretagna, beh, questo è uno scandalo americano. Steve Leeson sulla NBC ha dato un quadro molto preciso, molto chiaro, di quelle che potrebbero essere le conseguenze, perché c'è una parte aziendale, c'è una parte governativa. Il governo americano utilizza Bloomberg. E dunque cosa succedeva? Che Bloomberg ha due grosse divisioni. Da una parte c'è una divisione che vende dati, statistiche, storie per la ricerca di archivio e una gran quantità di informazioni molto dettagliate, di studi di mercato, di proiezioni fatte da analisti e da specialisti. Dall'altra c'è la parte invece di notizie, di news. Cosa succede? Che l'azienda aveva deciso di dare dei codici di accesso ai loro giornalisti per poter penetrare i conti dei clienti che compravano il servizio quello più caro, quello che poi rappresenta la gran parte del reddito di Bloomberg, del servizio, chiamiamolo, di informazione dati. E così, come vi raccontavo, i giornalisti cercavano di capire se c'erano delle notizie in divenire. Come è venuta fuori questa notizia? Beh, perché il New York Post venerdì scorso ha raccolto delle lamentele da parte di banchieri di Goldman Sachs che avevano accusato Bloomberg e i giornalisti di Bloomberg di aver spiato dentro i loro conti per capire che tipo di ricerche stavano effettuando i banchieri. Ora voi capite che una cosa di questo genere dal punto di vista etico è inaccettabile e dunque non credo che basteranno le scuse di ieri formali, contrite, di Matthew Winkler, che è il direttore di Bloomberg News. Nell'email di venerdì di Dan Doktorov, che pensate era ex vice sindaco di Bloomberg, che è l'amministratore delegato di questo gruppo che ha 15.000 dipendenti, 200 uffici intorno al mondo, insomma è sicuramente uno dei più grandi gruppi media del mondo. Una curiosità, le lamentele di Goldman Sachs sono state riprese dal New York Post, che appartiene al gruppo Murdoch, e naturalmente Murdoch vuole cercare di minimizzare o di dire che anche altri, non soltanto lui, è colpevole di alcune leggerezze nell'approvvigionamento di notizie. Altro punto non irrilevante, il gruppo Murdoch include il Wall Street Journal e la Dow Jones. La Dow Jones è un servizio di informazioni che è uno dei principali concorrenti di Bloomberg. Quindi, come dire, guerra senza esclusione di colpi. If you went to the financial community and you said to the financial community you can only deal with one of those companies, you can only get one of those services, today they would pick Bloomberg. Michael Bloomberg, il sindaco, beh, devo dire un grande, grande moralista, però in questo caso rischia di farci a sua volta una brutta figura, perché lui stesso era la guida del gruppo quando si decise di autorizzare questo tipo di procedure. Diciamo che non sono così spinte come potevano essere quelle del gruppo Murdoch, in cui i giornalisti addirittura pagavano, cercavano di corrompere magari funzionari pubblici per poter ottenere delle informazioni, oppure avevano trovato il modo per ascoltare delle conversazioni telefoniche, quindi carpire segreti di personaggi illustri. Resta però il fatto che siamo soltanto all'inizio, secondo me, di uno scandalo che avrà ramificazioni profonde. Immagino che ci saranno forse delle audizioni parlamentari. Dunque, quanti altri scoop sono stati ottenuti in questo modo? Per ora non lo sappiamo, però sappiamo che Bloomberg è stata colpita al cuore. Scoop di Woga era un romanzo leggero ad altri tempi, mentre gli scoop di Bloomberg fanno parte di un dibattito centrale per l'etica e per la trasparenza dei mercati finanziari. Aspettiamoci dunque nuovi colpi di scena, simbolo dell'inquietudine morale del nostro tempo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il Laneway Festival sbarca in America dall'Australia, arriva a Detroit ad aprire il concerto il prossimo 14 settembre. The Nationals e Sigur Rós, poi ci saranno altri protagonisti della scena indie rock, per un totale di 20 band. Io voglio dedicare la canzone di oggi, The Nothing Song, ai Sigur Rós. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.